Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Di Berlino è stato identificato l'uomo che ieri sera ha lanciato un camion contro la folla che era in visita ai mercatini di Natale nel centro della capitale tedesca, uccidendo 12 persone e ferendone altre 48. Sarebbe un pakistano di 23 anni entrato in Germania a febbraio come richiedente asilo attraverso la rotta balcanica. La polizia lo avrebbe intercettato ieri sera grazie a un testimone che lo ha inseguito per diversi chilometri, restando sempre in contatto con gli agenti e permettendo così l'arresto. Il presunto attentatore avrete dettagliate informazioni, per quanto è possibile averne a tempo reale, nel corso delle varie edizioni dei giornali radio. Poi in particolare il programma di Simone Spezia avrà degli analisti, vi daranno degli elementi di valutazione ulteriori sugli eventi che stanno in questo momento sconvolgendo l'opinione pubblica. Parlo in particolare dei due attentati terroristici di diversissimi in quanto metodologia, anche se assimilabili a un medesimo disegno di destabilizzazione. Quello che voglio fare questa mattina con voi è un'analisi di tipo diversa. Un'analisi può far chiunque di voi, senza necessariamente aver bisogno di strumenti raffinati di analisi politica, di analisi sociale, di analisi di tipo militare. Vi rendete conto che, lo sapete benissimo, che il terrorismo trae la sua forza, la forza delle sue azioni, azioni anche rischiose, azioni che costano comunque un prezzo di sangue per gli adepti che ne sono protagonisti, nella ricaduta generale attraverso i media di questi attentati, di questi atti. Un atto terroristico tanto più efficace, tanto più se ne parla, tanto più rimane impresso, tanto più rimane memorabile e indimenticabile, segna una tappa nella routine quotidiana dell'umanità, che deve improvvisamente essere scossa, essere disarticolata, disabilitata rispetto a quello che è il quotidiano, le sue funzioni, le sue occupazioni, le sue preoccupazioni. Vorrei che analizzasse un attimo assieme a me questi ultimi due attentati per capire se quanto fa parte di una strategia mirata, ne abbiamo parlato tante volte, quanto ci sia ormai un sistema raffinato di produzione di una sorta di marketing strategico del terrorismo, i primi filmati, le esecuzioni sempre più elaborate, i processi e le condanne a morte, semplici, singole, multiple, di uomini, di donne, i bambini che diventano protagonisti, i bambini che diventano boia, le generazioni che dimostrano di aver ben investito nella direzione degli scopi del terrorismo. Ma in questi due attentati in particolare ci sono dei tipi di lettura che voglio che riusciate a cogliere assieme a me. Ve ne dico uno e poi sugli altri rifletteremo assieme. L'attentato di Ankara, avete visto quel filmato, è girato, poi adesso nei telegiornali in maniera ipocrita mettono le immagini pixellate, l'abbiamo già visto tutti, un signore grassoccio con il gilet di lana, tranquillo, inaugura una delle tante mostre, come la Turchia vede la Russia, mostra d'arte, d'arte è un parolone, in un ambiente piuttosto triste, squallido, bianco, il bianco accecante, dei quadrettini che ritraggono l'iconografia russa, si intravede la Piazza Rossa. A un certo punto il signore ha un sussulto strano nel suo primissimo piano, mentre parla a microfono, dice parole di circostanza, e mentre lui stramazza si vede il quadro che nascondeva la sua silhouette. Era un cannone, come se avesse un cannone puntato dietro la schiena. Guardate, è singolare questa coincidenza. Lui cade e scopre un cannone. E poi si vede l'attentatore. L'attentatore è vestito, si muove, si atteggia, impugna la pistola, la brandeggia, minaccia. Le persone sono rimaste in quella stanza. Un avvenimento culturale di scarsissimo interesse, c'erano quattro gatti, scappano tutti, scappano anche gli operatori, ma la telecamera rimane accesa, quindi continua a diretta. Questo signore è vestito come un protagonista delle Iene, la sua performance, per quello che può durare, sembra tratta da un film di Tarantino. È tarantinesco il suo muoversi, il suo vestirsi, camicia bianca, vestito da Iena. Voi direte sì, è un ex poliziotto, faccia parte comunque della sicurezza. Non tutti i poliziotti si vestono come iene. Aveva una divisa particolare, c'era una sua scelta nel tenere in mano quella pistola, tiene in mano come la tengono in mano i protagonisti dei telefilm. È reale, è costruito, è una postura a favore di telecamera. Invece l'altra immagine, quella dell'attentato a Berlino, è un'immagine già vista. E qualcosa ci colpisce meno che abbiamo già vista. Luci, notte, folla, il camion, il tir fermo, parcheggiato, i riflettori, le copertine termiche, quelle metalliche, dorate, sembrano il bagaglio di un astronauta che coprono le persone per terra. Lì l'abbiamo già visto. Avete fatto questa riflessione? Che riflessione avete fatto sulle immagini che hanno in qualche maniera sconquassato il vostro Natale? Ora alla fine lasceranno in voi il tempo che trovano e da domani tutti di nuovo di corsa a comprare regali, regalini, cotechini e panettoni. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Chiedo questa mattina al pubblico di fare una riflessione, un punto su quello che è stato l'impatto mediatico che è trapelato, coinvolto la loro riflessione, la loro coscienza, il loro sentire un pericolo attorno dagli attentati, nell'escalation di attentati di matrice islamica, soprattutto quelli, perché sono quelli di cui più si parla, quelli di cui che sono al centro della nostra attenzione, dalle prime esecuzioni, cominciando da quella del giornalista americano un paio di anni fa, fu la prima clamorosa Foley, vi ricordate? La decapitazione di un giornalista occidentale, sembrava una cosa incredibile, poi andando avanti, ci siamo come abituati, come ci si abitua a un genere di telefilm, come ci si abitua a un format televisivo. Poi ci sono state le varianti dell'autotreno impazzito, che si butta sulla folla festante, prima sul lungomare di un luogo di vacanza, poi in un mercatino di Natale. Esistono luoghi più innocui, luoghi che sembrano più lontani da ogni preoccupazione, e il tir arriva, il tir assassino, anche questo sembra un format. E poi l'esecuzione dell'ambasciatore. L'esecuzione dell'ambasciatore pure sembra tolta da una sequenza di un film. Vediamo se qualcuno di voi riesce ad azzardare qualche analisi o qualche stato di coscienza profondo che riemerge da queste immagini. Professor Marco Lombardi, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Marco Lombardi è direttore di It's Time, che è il centro di ricerca sul terrorismo e sicurezza del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Ha scritto vari libri, fra cui Il terrorismo e il nuovo millennio, edizioni Vita e Pensiero. Professore, lei ha mai fatto approfonditi studi, ricerca, solo una riflessione sull'iconografia attuale del terrorismo? Il terrorismo è da sempre comunicazione, questo è qualcosa che dobbiamo avere in testa, e sostengo da sempre che debba essere studiato con quelli che noi chiamiamo gli strumenti della media research. In particolare il Daesh, quello, il terrorismo attuale, l'islamismo di ISIS, chiamatelo come volete, è un grande esperto di comunicazione. Ci siamo stupiti, forse i mediologhi, usiamo questa parola, si sono stupiti delle tecnologie che usava Daesh, ma in realtà è andato in continuità rispetto a quello che faceva Al-Qaeda. Ho seguito le battute di introduzione che lei ha fatto e condivido la lettura comunicativa, prima ancora che mediatica, che ha fatto, per sottolineare non tanto l'innovazione tecnologica, va da sé, è un dato di fatto della quotidianità nella comunicazione, ma la capacità di regia. La novità del Daesh è che esiste una regia perfetta che utilizza gli strumenti che noi insegniamo, i serial, i magazine, i video, ma anche la gamification, la convergenza, tutte le teorie che noi insegniamo nelle nostre università sono usate con una regia perfetta orientata a ottenere un obiettivo. Questa è la grande novità di Daesh. Noi ci siamo illusi all'inizio che questo non potesse accadere, perché immaginavamo il classico terrorista, una sorta di persona disperata, lontana, che vive in maniera arcaica, lontano dal mondo, privo di cultura. Quando ci siamo resi conto che però i protagonisti attivi di questo tipo di terrorismo sono qualcosa che corrisponde ai nostri figli, ai nostri vicini casa. Sono persone che sono come noi. Abbiamo capito che sono persone che hanno studiato come noi, hanno visto i nostri telefilm, la nostra televisione, letto i nostri libri, giocato con le nostre console, immaginato quello che noi abbiamo immaginato, hanno passato il tempo nelle nostre stesse discoteche, hanno fatto i nostri stessi discorsi, le nostre stesse esperienze. È chiaro che quando si trovano in mano la possibilità compiere atti clamorosi, epocali, che lasciano l'opinione pubblica sbigottita, perplessa e ferita, usano questi strumenti. Certamente, ma da questo punto di vista forse siamo ancora un pochino indietro. In effetti non abbiamo ben compreso che cos'è il terrorismo del nuovo millennio. Questo è un punto importante. Da una parte noi, quando le cose ci fanno paura, cerchiamo sempre di attrarle a cose che sappiamo già. Noi diciamo modelli cognitivi che sono stabilizzati, ci interpretiamo dal nostro punto di vista, e questo è un grave errore. Secondo, noi abbiamo sempre in testa, perché Daesh da una parte propone una ideologia che è sicuramente medievale, abbiamo sempre in testa che la globalizzazione che abbiamo teorizzato non sia poi così diffusa come pensiamo, per cui abbiamo in testa una sorta di combattente terrorista con le ciabatte, il vestitone lungo, una K-47 in mano. Potrebbe essere anche vero, ma è connesso perché la maggior parte dei terroristi sono la generazione digitale, sono connessi con telefonini e con quant'altro, e questa cosa noi non la comprendiamo, e Daesh è su questo che ci sfida, perché Daesh sta interpretando la globalizzazione, la novità che noi abbiamo teorizzato usando i nostri strumenti, e mi sembra che siamo impantanati nel capire come si muovono le cose che noi sui libri abbiamo teorizzato si dovessero muovere esattamente come si muovono. Cioè Daesh sta vincendo culturalmente perché noi siamo arretrati. Le faccio un altro esempio. Vedo la foto in prima pagina di Repubblica, insisto sull'assassino dell'ambasciatore Andrei Karlov, che è quello più significativo. Certo. Guardatelo bene, questo ragazzo ha una giacca di quelle proprio tagliate all'ultima moda, quelle che arrivano a filo di natica, corta, ha una camicia perfetta, ha delle scarpe che stanno benissimo, è vestito bene, ha un taglio di capelli totalmente occidentale. Il suo tenere in mano la pistola in quella foggia non è casuale. Esattamente come la tengono, come la fareste voi dopo aver visto tanti telefilm, se vi mascherate da serial killer, terreste in mano una pistola così, la pistola giocattolo che magari comprate in un negozio di giocattoli. Esattamente la costruzione di tutta l'iconografia legata al terrorista perfetto, all'uomo invincibile, al protagonista di tanti serial televisivi, quello che nessuno riesce a sconfiggere, che è un veterano, che ha fatto tutte le guerre possibili, che oggi combatte comunque in quanto mercenario. Ma questo ragazzo ha 20 anni, era appena nato, non aveva nient'altro questa cultura dei telefilm dietro. Sentiamo Andrea velocemente, 800 24 00 24, vorrei sentire dal pubblico le loro impressioni, le loro riflessioni fra fiction e fra realizzazione e concretizzazione della fiction in episodi criminosi che vivono nell'attualità. Andrea. Pronto, ciao, buongiorno a tutti. Ascolta, io sono molto d'accordo con la tua interpretazione di questa televisività del terrorismo, cioè sul fatto che noi siamo di una generazione in cui il terrorismo lo vedevamo sui giornali o sentivamo esplodere le bombe sui treni, eccetera. C'è un terrorismo che vivevamo sulla nostra pelle quando eravamo ragazzi. Adesso il terrorismo è diventato uno spettacolo e questa cosa, io mi vergogno molto di quello che mi viene da pensare adesso, è che come molte cose in televisione sono finte, queste cose finte non sono, ma ci vengono comunicate come se lo fossero. Cioè questo attore, che poi è un terrorista, che spara, ammazza una persona, ce l'ammazza davanti agli occhi e non ci fa più nemmeno impressione. Beh, noi stiamo, non perché voglio suscitare sentimenti che non c'entra nulla, sto facendo rifletto sul fatto che l'indifferenza fino a un certo punto, bisogna fare della nostra differenza un'analisi profonda per capire il momento in cui stiamo vivendo. Infatti io, come ti dico, mi vergogno di questo fatto, perché mi fa più impressione l'immagine che quello che sta succedendo, e io non vorrei che questa cosa fosse una cosa perseguita, cioè che si sta cercando di desensibilizzarci a questa cosa, come se la morte fosse una cosa che si guarda in televisione anche quando è vera. Mi fa un po' impressione. Guarda, io qua. Faccio una domanda. Gaetano Bresci, un anarchico che uccise re Umberto II, da cui poi scoppiò un casino a livello europeo, noi ce lo ricordiamo per un'incisione in cui siede il re con la mano che si copre, la regina, Bresci con la pistola che spara. Anche allora un'iconografia lo consegnò la memoria, ce lo ricordiamo, Bresci che spara il re, succede improvvisamente l'ira di Dio, ma è sempre stato così. Oggi sono mezzi più potenti di riverbero immediato su quello che è reale, e quindi anche il terrorismo, come ha sempre fatto, anche il gesto clamoroso che deve cambiare una situazione politica, sociale, economica, fa la stessa cosa, segue il flusso, professore. Il terrorismo vuole fare paura e molto spesso ricordiamoci che basta la minaccia per ottenere i risultati. L'evento che viene minacciato non è neppure necessario, così capito spesso con la comunicazione del vecchio Osama, per fare un esempio. Quindi la minaccia è pura comunicazione. Ancora una volta il terrorismo fa parte quindi della comunicazione. Tutte le cose si sono complicate ormai perché nel mondo globale la comunicazione è una grande rete in cui è facilissimo comunicare. Oggi il terrorismo è autonomo nel comunicare, ha i suoi canali. Questo ci interroga dall'altra parte anche sul riverbero che spesso i media danno a quelle che sono le comunicazioni del terrorismo. Ora meno, ma fino a poco tempo fa i media occidentali sono stati grandi canali di amplificazione della minaccia che otteneva i suoi risultati. E questo è un altro aspetto problematico. Oddio, questo è un altro punto che, se lei ci dà un istante, poi dopo la pausa vorrei confrontarmi con lei, perché c'è stata sempre la teoria, una teoria di dire non ne parliamo più, non facciamo vedere più niente, tiriamo giù un velo, che non credo e non penso, non immagino sia nemmeno questa l'idea, quando il mainstream decide di tirare giù il velo su quello che accade e quando ormai il mondo si informa, si interroga e si pasce di verità o di finte verità attraverso la rete, attraverso sistemi individuali. Solo un istante, ci fermiamo, riprendiamo fra un minuto. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Sappiamo che comunque la persona che ovviamente ha compiuto questo atto aveva chiesto asilo nel nostro paese, proprio qui in Germania. Noi ovviamente continueremo a sostenere e soprattutto a dare sostegno alle persone che chiedono. 800 24 00 24, stiamo dando idea delle iconografie del terrorismo attraverso i media, attraverso i tempi. Ho citato l'assassino del re buono, re Umberto I, Gaetano Bresci, lo chiamavano il paino per quanto era vestito bene, anche lui andava sempre vestito con una redingote nera, una camicia bianchissima, si distingueva, usciva dalle iconografie comunque dell'anarchico fosco assassino. Avevo fatto una domanda al professor Marco Lombardi, so che poi deve andare, che è direttore di Leeds Time, centro di ricerca sul terrorismo e sicurezza di sociologia universale cattolica. Sui media che in fondo si fanno strumenti di propagazione poi del terrorismo, qual è secondo lei la formula giusta? Io questa mattina sento il bisogno di fare questa trasmissione, di analizzare, di vedere, di sviscerare, di sentire le reazioni nel pubblico di quello che è accaduto. Potrei non parlarne, secondo lei sarebbe meglio? Io chiedo solo no, assolutamente no. È chiaro che la censura, bloccare l'informazione è impossibile, è illegittimo, non ha senso per la condizione tecnologica nella quale siamo. Io voglio solo sottolineare due concetti in questo contesto. Uno che è quello di responsabilità da parte dei media. Cioè, tutte le teorie cosiddette degli effetti sui media sono teorie incerte, lo sappiamo, ma sappiamo per certo che ogni comunicazione ha un effetto. Quindi siamo legittimati a dire tutto, come mezzi di informazione, ma ci assumiamo anche le responsabilità che inevitabilmente un effetto della comunicazione ha su chi la riceve. Non ci possiamo lavare le mani, quindi chiamo la responsabilità ai media. Dall'altra, l'altro concetto è per il pubblico, consapevolezza. Siamo in un regime di comunicazione diffusa in cui tutti comunicano tutti ormai. Va molto di moda parlare di fact checking adesso nel giornalismo. Perché? Perché ci sono una quantità di bufale che girano. Ne abbiamo parlato proprio l'altro ieri. C'è una inconsapevolezza da parte del pubblico. Tutto quello che gira in rete, magari perché l'ha detto un amico a due like, è qualche cosa che è meritevole di attenzione. Allora, è chiaro che non si può bloccare niente. Questo, per fortuna, è il nuovo regime di libertà comunicativa, ma io richiamo alla responsabilità ai media sugli effetti e alla consapevolezza che non tutto quello che circola ha la stessa qualità da parte del pubblico. Tutto qua. La ringrazio, professore, la saluto. Grazie a voi. Roberto, il nostro Roberto ascoltatore. Roberto, buongiorno. Ciao Gianluca, intanto ti voglio salutare caramente, perché io ti seguo dai tempi in cui andavi a cercare nel centro della Terra, nelle fosse scozzesi, le vibrazioni del nostro universo. Intercettavamo, sì, erano segnali, sì, certo, che giravano in rete, ma ancora la rete cose molto importanti, la gente non sapeva nemmeno cosa fosse. Sì, erano sperimentazioni. Così mi fai passare per un ricercatore di scie chimiche, diciamolo. C'erano dei luoghi in rete quando ancora la rete non era conosciuta, in cui c'erano delle sonorità che ci interessavano. Qualcuno metteva dei microfoni nei posti più strani e metteva in rete le emissioni di questi posti strani. Io allora, la rete erano 10 persone. Piaceva andare a cercare questi, mettendo in dei grandi silos, mi ricordo, dei microfoni, e sentire il riverbero. Sembrava una stupidaggine, ma sentire a temporale quello che avveniva a migliaia e migliaia di chilometri sembrava straordinario. Va al punto, comunque, andiamo al punto di oggi. Ma velocemente, io ho visto stamattina il filmato dell'attentatore in Turchia, dell'ambasciatore russo, e ho avuto due tipi di reazioni. Subito ho cominciato a pensare, questo uomo che ballava a destra e a sinistra dello schermo, dice questo fra pochi minuti verrà ammazzato. Ho sentito prima la partecipazione, no, verso la persona, verso l'umanità, dico, ma guarda che questo sa che il suo teatro finisce fra pochi minuti. È così accaduto, perché è così accaduto. La sequenza finale, però, non l'ho descritta, è il cadavere del terrorista crivellato di colpi per terra, ma proprio un istante dopo, mentre esattamente nella stessa posizione supina della sua vittima, in un lago di sangue. Dopo mi sono sentito come se fossi dentro al videogioco, sai quando si vedono questi videogiochi nuovi, che poi io li vedo così, dove appare il comando che arriva e spara e fa una macchia rossa, cioè mi sentivo a un certo punto... La nuvola di sangue, sì. Assolutamente così, cioè, non capivo più se stavo combattendo, stavo avendo compassione dell'uomo, se stavo così immaginando un'azione di, appunto, del comando di un videogioco. Quindi è stata anche una cosa abbastanza così. Sai, Roberto, io penso che però quella persona che hai visto in televisione con la pistola in mano, che si agitava, ballava appunto come il balletto delle Iene di Tarantino, vestito anche uguale. Esattamente, era veramente molto... Esattamente, sembrava proprio esattamente una scena delle Iene, io così l'ho interpretata. Sì, sì. E era consapevole che quello sarebbe stato l'ultimo atto teatrale della sua vita, mica nascevo, faceva il poliziotto, lui era già morto nell'istante che ha fatto quel gesto, e ne era consapevole, e ha scelto la maniera migliore secondo lui. Non è fisiologicamente, culturalmente diverso da me, da te. È nato alla più o meno, anche se un'altra generazione, alla stessa scuola. Sì, sì, però, quindi certo, ha scelto quel sistema. Ormai siamo lontani dalle immagini nel deserto, dal beduino che si rifà a tradizioni millenarie. Siamo esattamente noi. Paolo, buongiorno. Era esattamente nella stessa modalità e nello stesso sentimento, penso. Questo proprio, perché uno mi sta scrivendo: finché ne rimarrà uno in vita come il vecchio West avremo il problema. Sì, ho capito, dobbiamo cominciarci a sparare addosso tra di noi, perché tra questo signore e me o mio figlio non vedo grandi differenze, a colpo d'occhio perlomeno, poi interiormente saranno molto diversi. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, questa grande diffusione di notizie sugli atti terroristici non è detto poi che giovi ai terroristi, non è detto necessariamente che tutti si piegheranno alla loro volontà, può darsi anche che ci sia una reazione, ad esempio Israele risponde militarmente con rappresaglie militari, noi potremmo anche espellere tutti i 20 milioni di islamici che sono in Europa, anche se magari di terroristi ce ne saranno 1000 e basta. per andare sul sicuro li espelliamo tutti. Non credo che questa sarebbe una vittoria per i terroristi. Grazie. Va bene, si è espresso Paolo. 20 milioni di persone da espellere, mi sembra una procedura un po' difficile, non riusciamo a espellere persone chiaramente, dichiaratamente, nei termini di legge per essere espulsi. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bruno Ballardini, ricordate, esperto di marketing, comunicazione strategica, ha scritto un libro, Isis, Marketing dell'Apocalisse, Baldini Castoldi, poi ne ha scritti molti altri, è quello che in assoluto, per primo, almeno in Italia, e di questo mi sento fiero perché è accaduto in questa trasmissione, ha cominciato a parlare di una strategia di marketing, una strategia mediatica. Ancora la gente ci rideva dietro quando diciamo queste cose, ci trattava come se vaneggiassimo, fuori completamente dal seminato, ma siete pazzi. Invece oggi esattamente, anche nelle maestre di scuola fanno fare il tema, parla la strategia mediatica del terrorismo. Allora dammi una tua analisi invece di queste immagini, Bruno, al di fuori di tutte le valutazioni di tipo profondo e militare. Ma chiaramente bisogna ricordare che l'ISIS faceva da molti mesi, da molto tempo, bisogna vedere quando avvengono questi attentati, perché la gente si ferma all'aspetto cronachistico, purtroppo pompato dai giornalisti che a loro volta non sanno un accidente di quello che sta succedendo, perché seguono, fino adesso hanno seguito il mainstream americano, le verità ufficiali dettate dagli alleati, ma la verità è che l'ISIS è sotto scacco. Grazie ai russi, grazie ai siriani che stanno combattendo sul territorio. Quindi, sul piano militare è sicuramente svantaggio, perché ne stanno facendo carne da macello. Ma non arrivavano nemmeno video nuovi delle case di produzione dell'ISIS, quindi che cosa significa questo? Stiamo tornando alla stagione dei lupi solitari come quelli di Parigi, Bruxelles? Io non credo, queste sono semplicemente azioni che vengono programmate di volta in volta, slegate dalla regia locale, ovvero coordinate, perché poi un poliziotto, ragazzi, il poliziotto è uno che è sotto controllo dell'apparato, è stato scelto, è stato addestrato, non possono pensare di aver assunto nei corpi militari o di polizia un pazzo che aveva problemi psichiatrici, oppure che ha celato fino a quel momento le sue reali intenzioni e il suo modo di vivere l'Islam essendo un wahhabita estremista. Fra l'altro, scusami, su questo l'ho fatto riflettere insieme a te, io ho visto con sorpresa due fatti che sembrano in contraddizione: le foto immediatamente uscite, lui già con la divisa quasi da cadetto, non ho capito bene, comunque una divisa che dimostra che ha fatto comunque una scuola ufficiale, non è che è diventato poliziotto con la scuola Radio Elettra. Esattamente. E allo stesso tempo tutti i precedenti, le sue frequentazioni di ambienti, diciamo, non voglio dire terroristici in senso stretto, ma sì, dal punto di vista governativo sì, perché era vicino agli autori e gli ispiratori del tentato golpe al presidente turco di qualche mese fa. Allora, e come te lo spieghi? Questo è molto interessante, perché in realtà tutto quello che succede in Turchia va preso con le pinze, perché i turchi, in particolare Erdogan, hanno un atteggiamento di doppiezza che è noto a tutti e giocano su più tavoli proprio per ottenere dei loro vantaggi. Cosa serve ammazzare un ambasciatore russo non si sa ancora, ma sicuramente è un avvertimento fra servizi segreti, è un linguaggio mafioso che capiscono solo loro, cioè un avvertimento su un tavolo di trattative. Perché? Perché Putin ha ridotto a miti consigli Erdogan, ma non tanto, perché Erdogan comunque in realtà sta continuando sul campo a fare il gioco degli americani. Cioè sta andando in Siria cercando di tagliare via una fettina di territorio, smembrare la Siria, e quindi questo è esattamente quello che volevano gli americani. A questo punto risulta che è evidente che il suo golpe era un golpe finto, assolutamente finto. Ha fatto finta di litigare, ma ha continuato sotto banco a collaborare. Allora, fermo un attimo, siccome è interessante, non ti voglio troncare, devo in questo momento dare spazio alla pausa. Prendi un attimo fiato, che mi interessa molto la vicenda di questo signore che oggi ha calamitato il mio interesse. Tu direi per una baggianata, perché sembrava che facesse la parte di un personaggio di Tarantino. Se vai a vedere però un attimo dietro la facciata, con le semplici informazioni, diciamo, delle fonti aperte a disposizione di tutti, già ci possiamo porre qualche domanda. Tra un istante. Melog. Cronache Meridiane. 800240024. Riprendo un attimo il punto che ho interrotto con Bruno Ballardini. Ecco, adesso davanti è il tesserino di poliziotto, quella foto che io alludevo. Ma come si spiega che Erdogan ha messo in galera e epurato migliaia e migliaia di persone, professori universitari, alle maestre d'asilo, e tiene un poliziotto in un compito così delicato, che fa la scorta a un ambasciatore russo, quando c'aveva già un precedente di collusione, partecipazione, simpatia con il suo nemico pubblico numero uno, che è l'ispiratore comunque del golpe? Come te lo spieghi? Semplicemente Erdogan lascia fare, questa azione può essere non programmata, questo poteva essere già un fanatico comunque con tendenze estremiste da un punto di vista islamico, cioè un wahhabita, uno che seguiva la stessa ideologia dell'ISIS, ma serviva un sacrificio di questo tipo per mandare un avvertimento ai russi, cioè si sta riaprendo un tavolo di trattative fra servizi segreti, fra corpi dello Stato, che è un livello sotterraneo rispetto a quello che noi conosciamo dei giornalisti, delle notizie ufficiali. Questa guerra, quella in Siria, si fa a livello di servizi segreti, si fa a livello di propaganda, cioè voglio dire, l'ISIS si sta apparentemente risvegliando con delle reazioni che sembrano di vendetta, proprio nel momento in cui adesso a Palmira si stanno di nuovo perdendo. Allora però qui mi servi però nel tuo ruolo professionale di uomo di pubblicità. Se questo scenario avesse dei fondamenti, ecco, dammi una lettura della realizzazione dello spot dell'attentato. Adesso un attentato esemplare, deve essere un messaggio a um fra persone che sanno, deve essere fatto da una persona che ricopre un ruolo ma che tutti sanno che in realtà ha una sua doppia configurazione, ma tutti comunque lasciano al suo posto. Come lo ha realizzato? Davanti a una telecamera, TV ufficiale, in questa tristissima mostra di arte che sembra una cosa di una proloco di un paese, capito? Questo poveretto dell'ambasciatore sembra che è andato lì in uno dei tanti compiti istituzionali, il più miserrimo, con il gileino di lana, proprio non ha nulla di ufficiale. Però perché ne stiamo parlando e perché ha così colpito? Le prime pagine dei giornali c'è questa immagine che è fortissima, del signore vestito da iena con la pistola in mano. Noi ha colpito l'immaginario, ha colpito soprattutto la facilità con cui è avvenuto, cioè il fatto che comunicare che nessuno più è al sicuro, come è obiettivo di tutti gli attentati, voi non siete al sicuro, voi vi possiamo uccidere in qualunque momento, ma questa poi insomma è rivolto, ripeto, alla Russia, perché potrebbe essere anche un secondo messaggio rivolto all'Occidente, come dire, è inutile che cominciate a pensare di avvicinarvi alla Russia perché soltanto l'America vi difende, cioè attenzione che questi sono destinati comunque a perdere militarmente, vedete con che facilità perfino un ambasciatore viene ammazzato, cioè i messaggi possono essere tanti, posso dire che finché c'era il dubbio che anche l'attentato di Berlino fosse della stessa regia, diciamo con gli stessi obiettivi, si poteva notare ad esempio che queste cose accadono sotto le elezioni tedesche, e che vuol dire tentare di spostare l'opinione pubblica comunque, perché lo scopo del terrorismo è manipolare la percezione della realtà e spostare l'opinione pubblica da un'altra parte. Ti faccio un altro esempio, il camion, la foto simbolo oggi su tutti i giornali, l'albero di Natale abbattuto con la stella di Natale per terra, i morti, il camion. Secondo te invece questa immagine è riuscita a colpire le coscienze quanto avrebbe voluto? Oramai rispetto al format di camion a Nizza è già passato, è già qualcosa che appartiene al passato, bisogna inventarsi qualcos'altro, non serve più. No, diciamo che serve localmente perché per esempio un attentato è quindi un'azione di comunicazione, perché gli attentati sono azioni di comunicazione in ogni caso, serve a rendere vacillante la situazione poco prima delle elezioni, e cioè il dubbio è che la Merkel venga sganciata dagli americani, lasci il dubbio che sia ormai un partner poco affidabile, perché in un paio di occasioni ha fatto resistenza e ha pagato caramente con con una campagna mediatica. Quindi te, scusami, mi sembra che dietro questi gesti, che io interpreto come gesti comunque devono colpire l'opinione pubblica, vedi un disegno più profondo, più sottile di, sì, di passaggi, di messaggi segreti fra persone che devono capire, devono sapere. È indifferente poi il fatto che ci commuoviamo noi per l'alberello abbattuto, è roba che appartiene soltanto ai tedeschi. Noi potremmo prendercela se accadesse a Piazza Navona, in mezzo alle bancarelle, non so se ci sono più, ci sono ancora dei tredicine, allora sì, magari saremmo tutti col cuore in mano. A vedere un albero a Berlino abbattuto da un camion, lascia il tempo che trova. Forse non è così importante l'opinione pubblica quanto è importante il messaggio segreto. Fermo un attimo però, Davide. Pronto? Sì, ti ascolto. Sì, ma io volevo dire una cosa un po' diversa. Le vostre riflessioni sono molto profonde, molto intelligenti e quant'altro, però io ho un punto di vista un po' diverso e mi chiedo se... Ripeto, sono punti di vista, nessuno dice sì, le cose... Sì, ma anche il mio è un punto di vista. Con valore primo assoluto. Sento Bruno Ballardini che ha un punto di vista, esprime un punto di vista, lei esprime un punto di vista. Sì. Volevo dire questo, ma se noi consideriamo tutto ciò non terrorismo, ma atti di guerra, forse tutto assume un'importanza... è un'ottica diversa. La guerra non è composta da singoli atti. Mi sembra che sono considerati come soldati a tutti gli effetti. L'attentatore dell'ambasciatore russo, sì, gli hanno sparato addosso al volo, non è che sono fatti scrupoli. L'hanno giustamente messo in condizione di non nuocere immediatamente. Ma questo grandissimo accento che facciamo tutti, anch'io, sulla comunicazione, forse è sbagliato, nel senso che si vanno a approfondire moltissimi aspetti, il fatto, le regie occulte più o meno e quant'altro, perdendo di vista la cosa principale, cioè forse un modo occidentale per parlare di cose meno importanti. La cosa importante è che c'è una guerra, che ci sono probabilmente delle grandissime responsabilità anche americane in tutto ciò che è avvenuto. Quello che stavo dicendo. Forse mi sono perso una parte della trasmissione. No, ma lei dice perdete tempo a parlare dei particolari del vestito. Sì, cioè, come vestito, io vengo da Bologna, c'è una vecchia signora da un panettiere a casa mia stamattina, ha detto bisognava vedere come l'era vestito. Ma vede che ha un senso, scusi. Io in questo momento come vocazione mi occupo proprio di questo, di capire l'impatto dei media e come in qualche maniera coinvolge e condiziona l'opinione. Come vede, la mia riflessione, lei mi dà ragione, è la riflessione, se la signora del panettiere di Bologna è rimasta colpita di com'era vestito. Ma com'era vestito? Il punto di questa vicenda è proprio com'era vestito. Dietro quel com'era vestito si dipana poi tutta la lettura di Ballardini, di Lombardi, che ho fatto io, che facciamo noi, capito? Sì, ma io capisco queste letture e mi sono affascinato perché sono argute, intelligentissime, tutto quello che volete. Metti che fosse vestito come il feroce Saladino delle figurine della Perugina. È chiaro che forse colpiva anche meno, perché ci aspettavamo tutti quello. Come bello figo in questi giorni che rappresenta l'immigrante cattivo per eccellenza. È chiaro, è quello, è normale. Se uno va a casa bello figo, si accorge che c'è una mamma che gli stira le camicie. Dice, ma scusa, c'è qualcosa che non mi torna. No, ma che sia efficacissimo è reale, però il parlarne tanto, perché io sento che il 90-95% delle trasmissioni, non a livello della sua, ma anche altre a livello minore, parlano comunque di questi aspetti, di questa impossibilità di individuare, perché sono persone come noi, cioè, ma è un problema sempre di apparenza, di comunicare, secondo me non colgono l'essenza vero, che è un dramma che ha ben altre cose. Questa è la manifestazione ultima. Il dramma è composto di... si scompone, diciamo, in tanti pezzetti, ognuno analizza il suo. Tra un po' ci sarà Simone Spezzi, con degli analisti affronterà un altro problema, probabilmente più vicino alle sue aspettative. Bruno Ballardini, mi spieghi una cosa, me lo sta scrivendo un ascoltatore. Noi abbiamo parlato pochi giorni fa del caso Snowden, del controllo totale capillare di ogni essere umano dell'umanità. Dice, ma come mai siamo tutti controllati e ancora avvengono queste cose? Proprio perché c'è una censura, cioè il controllo è bidirezionale, non esiste solo il controllo sui dati, esiste anche il controllo sulla comunicazione, cioè tenete conto che gran parte delle, questa è una mia opinione, ma purtroppo non sono l'unico a pensarla in questo modo, gran parte delle nostre redazioni, e io mi riallaccio alla questione del fact checking che Lombardi aveva detto, detto poco fa. Stringe, siamo in sigla, il punto. Il fact checking lo devono fare i giornalisti per primi, ma se i giornalisti sono lavorano per testate che sono come dire un po' filo americane, si adeguano al mainstream, usano agenzie stampa che hanno una sola persona che sta a Londra lontano dai fatti ed è pagato dai servizi inglesi, ma che razza di informazione abbiamo? Lo so, però sai Bruno, io cerco di fare quello che posso con gli strumenti che ho a disposizione, gli altri facciano quello che vogliono, non posso allo stesso tempo raccontare ed essere il censore dei colleghi che non raccontano abbastanza. Alla prossima.